Matteo capitolo quindicesimo. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini». E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli. Son ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano dicendo: licenziala, poiché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea, e salito sul monte si pose quivi a sedere. Egli s'accostarono delle turbe che avevano seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi, e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me, e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via. E i discepoli gli dissero: donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla? E Gesù disse loro, «Quanti pani avete?» Ed essi risposero, «Sette e pochi pescetti». Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i sette pani e i pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono sette panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan.